Smart City, speciale Saie. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiama Med in Italy ed è un prototipo di casa mediterranea che ha portato a casa il primo premio per la sostenibilità al Solar Decathlon Europe, la gara per la migliore abitazione ad energia solare che vede impegnati team di studenti un po' da tutta Europa. Il prototipo che ha partecipato poche settimane fa alla rassegna europea, che per l'occasione si è svolta in Spagna, è stato smontato e poi rimontato alla Fiera di Bologna in occasione del Saie, il salone dell'edilizia che si è appena concluso e tra l'altro rimarrà ancora per un po' di tempo a disposizione dei visitatori della Fiera di Bologna. Proprio lì al Saie ho incontrato Chiara Tonelli, che è ricercatrice presso l'Università di Roma III in tecnologie dell'architettura e team leader del progetto MED in Italy, e naturalmente le ho chiesto di parlarcene. Sentiamo. Allora, gli obiettivi erano quelli di creare una casa che potesse rispondere alle richieste del concorso, ma che al contempo fosse una casa adattabile poi alla nostra Italia, cioè una volta che uno torna non ha una casa che ha risposto solo alla gara per vincerla. E quindi ci siamo rifatti alla tradizione mediterranea, che richiamiamo con il nome del progetto che si chiama MED in Italy da Mediterraneo, e ci siamo però anche rifatti un po' all'obiettivo di avere una, di creare una vetrina delle capacità italiane in ambito di edilizia sostenibile. E quindi proprio il progetto si chiama Made in Italy per richiamare il Made in Italy e per richiamare tutte le aziende italiane che ci hanno sostenuto in questo. E l'obiettivo principale era quello quindi di rispondere non solo e non soltanto al freddo, cosa in cui i nostri diciamo vicini nord europei sono molto bravi e hanno sempre fatto di questo il cavallo di battaglia delle loro capacità nel realizzare edifici sostenibili, edifici in grado di consumare poco, ma anche quello di rispondere al problema del caldo. Problema del caldo che è effettivamente estremamente più difficile da risolvere di quello del freddo. Bisogna considerare un dato, che è quello che per produrre un grado centigrado di calore, diciamo per riscaldare, servono 3 volte meno di energia che abbassare di un grado centigrado la temperatura dell'aria. Questo fa comprendere subito che i condizionatori che stiamo inserendo nelle nostre case man mano stanno creando un problema energetico enorme. Non a caso il picco di consumo energetico si è spostato dall'inverno all'estate, e qui veniamo al problema appunto di fondo, che è questo. Insomma, noi abbiamo un po' copiato dei modelli nord europei, ma in realtà le caratteristiche anche tecniche che deve avere un edificio dalle nostre parti per funzionare bene sono proprio diverse. Combattere il freddo e combattere il caldo richiede strategie completamente diverse. Ecco, che cosa rende questa casa più mediterranea? Allora, c'è un accorgimento in particolare, direi, che è quello di aver inserito all'interno dell'involucro della casa... Che è prevalentemente in legno come struttura, in fibra di legno come isolamento, però diciamo fino a lì siamo in una casa che è anche nord europea, nel senso che sì, perché comunque si protegge bene dall'esterno, dal caldo e dal freddo in ogni modo. Però poi noi all'interno abbiamo inserito quello che è la massa termica, è quello che riprende l'antica massa muraria di pietra o di laterizio delle tipiche case tradizionali mediterranee, e quelle dimensioni le abbiamo concentrate in pochissimi centimetri, solo 10, ma in grado di lavorare molto bene a contatto con l'aria interna. In questo modo quello spessore di, che nel nostro caso per poter essere trasportato è la sabbia, quello spessore di sabbia accoglie e raccoglie il calore durante il giorno, lo contiene in se stesso e quindi raffresca l'ambiente. E di notte poi, aprendo semplicemente una ventilazione naturale, quindi aprendo solo le finestre e dei piccoli sportelli, porta via il calore che viene rilasciato dalla massa che la va a accumulare. Lo cede. E beh, d'altra parte forse non è un caso che le baite in montagna si siano sempre costruite in legno, e i trulli in Puglia si facevano invece con un metro e mezzo di muri in pietra. Sì. Assolutamente, no. Però bisogna anche riconsiderare che esiste una tradizione del legno mediterranea che noi abbiamo recuperato, che poi è più antica ancora della casa romana, della domus di pietra, no? Ed è quella della casa etrusca, per esempio, che era in legno, e poi di tutto il nomadismo, per cui noi riportiamo in questa esposizione anche dei tessuti che sono quelli del lino, delle vele dell'Amerigo Vespucci, che rivestono tutta la casa in maniera un po' provocatoria. Però consideriamo che le vele sono anche dei materiali i più abituati a stare alle intemperie, no? Perché sopportano vento ed acqua salmastra, e quindi abbiamo ripercorso la tradizione nomade che era legno e tessuto. Questa casa poi è nata con l'obiettivo di partecipare a questa manifestazione, a questa gara che è il Solar Decathlon, una diciamo gara per chi costruisce le case più efficienti. Devono essere case che stanno in piedi con l'energia solare dal punto di vista energetico, e naturalmente devono essere efficienti, e vengono sottoposte a 10 prove. Sembra un po' i vecchi giochi senza frontiere, dicevamo prima, perché ad ogni prova le varie squadre possono avanzare o retrocedere, e anche qui c'è stata una specie di film che si è svolto negli ultimi giorni. Allora sì, Decathlon appunto è il nome della competizione, perché 10 sono le prove, 4 prove monitorate, che vuol dire sensori nella casa che ogni quarto d'ora aggiornavano i dati del punteggio, e 6 prove invece valutate dalle giurie. Allora, noi abbiamo preso 3° premio ad architettura, 3° premio a innovazione, 3° premio a comunicazione, 3° premio a energy balance, 2° premio al funzionamento domestico di tutti gli elettrodomestici, macchinari interni, e 1° premio a sostenibilità, per cui insomma, niente male, sì. Insomma, no? Ci siamo ben classificati. Intanto so che c'era comunque uno spirito collaborativo, un po' olimpico, fra i partecipanti a questa gara. Che erano, o chi c'era oltre a voi? Allora, oltre a noi, siccome è una gara internazionale, c'erano tantissime squadre, molta rappresentanza europea essendo a Madrid, quindi Germania, Francia con 2 team, Germania con 2 team, Spagna con 5 team, però poi c'era la Romania, in prima assoluta. Volta, prima assoluta pure per l'Ungheria, insieme a prima assoluta per l'Italia, c'era il Portogallo, e c'erano poi l'Egitto, che purtroppo ha avuto dei problemi di realizzazione, quindi non ha costruito la casa poi per la competizione. Perché non gli sono arrivati i pezzi, è così? Sì, sì, non sono arrivati i pezzi, problemi doganali, sono problemi doganali. Vabbè, insomma, la società globalizzata, vabbè. Sì. Poi c'era il Brasile, c'era la Cina e il Giappone, quindi molto internazionale come competizione. E chi invece ha partecipato a questo progetto Made in Italy per l'Italia? Abbiamo detto l'Università di Roma 3, e poi chi sono stati gli altri protagonisti? Allora, tra le università, l'Università della Sapienza, sempre di Roma, l'Università, la Libera Università di Bolzano, insieme al Fraunhofer Italia, che hanno fatto una piccola consulenza sulle strategie energetiche, verificando che tutto funzionasse, perché hanno dei laboratori molto avanzati. E poi abbiamo avuto tantissimi sponsor, e in tutti questi team si sono uniti docenti e studenti, proprio in una collaborazione molto stretta, che è qualcosa di molto raro. Bene, se volete saperne di più, per esempio come è possibile utilizzare il modulo base di Made in Italy come mattone per costruire edifici a più piani, www.madeinitaly.eu. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.